Non inorgoglirti se t'hanno posto a capo. Sta con i convitati come uno di loro. Provvedi prima a loro e poi siedi. Siediti dopo aver espletato il tuo compito, per rallegrarti della loro allegrezza e ricevere la corona per le tue buone maniere. Parla, o anziano, che ti s'addice, ma con saggezza e senza intralciare la musica. Se c'è uno spettacolo, non versare parole, non sfoggiare sapienza fuori tempo. Rubino incastonato nel monile d'oro, un concerto di musici mentre si beve il vino. Smeraldo incastonato in guarnizione d'oro, la melodia dei musici con il dolce vino. Parla, o giovane, se c'è bisogno, non più di due volte, solo se interrogato. Sintetizza il discorso, di molto in poco, sii come chissà eppure tace. Tra i grandi non darti importanza e tra gli anziani non ciarlare molto. Prima del tuono s'affretta il lampo, così il favore precede l'uomo modesto. Alzati in tempo e non attardarti, corri a casa senza perdere tempo. Divertiti ed appaga i tuoi desideri, ma non peccare con parole superbe. Per tutto questo benedici il tuo fattore, che ti inebria con i suoi beni. Chi teme il Signore accoglie l'istruzione, quelli che vegliano trovano il suo favore. Chi scruta la legge ne sarà ripieno, ma l'ipocrita vi troverà scandalo. Quanti temono il Signore sanno giudicare, brillano come luce i loro giudizi. Il peccatore rifiuterà il rimprovero e prenderà la decisione che gli piace. L'uomo di senno non sprezza la riflessione, ma l'empio superbo non prova timore. Non far nulla senza consiglio e non cambiare idea mentre stai operando. Non andare su strada scivolosa, così non batterai sulle pietre. Non avventurarti su strada inesplorata e guardati dai tuoi stessi figli. In tutto quello che fai, fidati di te stesso, poiché anche questo è secondo i comandamenti. Chi crede nella legge bada ai comandamenti, chi confida nel Signore non sarà umiliato.